Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Fuori, nel posto di guardia, Andrés e Gomez furono perquisiti dalle guardie. «Che ha quell'uomo?» disse Gomez a una delle guardie. «E sta loco», disse la guardia. «È un pazzo!» «No, è un uomo politico molto importante», disse Gomez. «È il commissario in capo della Brigata Internazionale». «A pesar de eso, sta loco», disse il caporale di guardia. «Tuttavia è pazzo. E voi che cosa fate dietro le linee fasciste?» «Questo compagno è un guerrigliero di lassù», disse Gomez, mentre l'uomo lo frugava. «Porta un messaggio al generale Goltz. Custodiscimi bene le mie carte, eh?» «Non ti preoccupare», disse il caporale. «Guarda, metto ogni cosa qui, in questo cassetto. Perché non hai chiesto a me dove era Goltz?» «Volevo farlo, l'ho chiesto alla sentinella e la sentinella ti ha chiamato. Ma poi è arrivato il pazzo e l'hai chiesto a lui. Nessuno dovrebbe mai chiedergli niente, è pazzo. Il tuo Goltz è sulla strada a 3 chilometri da qui, a destra, fra le rocce della foresta. Ma tu lo dirai a qualcuno di questo messaggio?» Certo, ombre, stai tranquillo. Conosco tutti in queste due brigate. Passano tutti di qui, conosco perfino i russi. Li conosco tutti, sebbene quasi nessuno di loro parli lo spagnolo. Vorrei vedere che quel pazzo si mettesse a fucilare anche gli spagnoli. Ma il messaggio? Penseremo anche a quello, non ti preoccupare, compagno. Sappiamo come prenderlo il pazzo. È pericoloso con i suoi, ma lascia fare a noi, vedrai. Fate entrare i due prigionieri, disse la voce di André Martí. «Queréis echar un trago?» disse il caporale. «Volete bere un sorso?» «Perché no?» Il caporale prese una bottiglia di anice da un armadio e Gomez e Andrés bevvero tutti e due. Beve anche il caporale, poi si asciugò la bocca. «Vamos!» disse. Uscirono dal corpo di guardia con la bocca, la pancia e il cuore riscaldati dall'anice bruciante ed entrarono nella stanza dove era Martí, dietro un lungo tavolo, la sua carta topografica aperta davanti con in mano la sua matita rossa e blu con la quale giocava il generale. «State lì», disse Martí senza alzare gli occhi. «Ascolta, compagno Martí», proruppe Gomez, la sua rabbia irrobustita dall'anice. «Stasera siamo stati fermati dall'ignoranza degli anarchici, poi dall'indolenza di un fascista burocratico e ora dalla diffidenza di un comunista. Sta zitto!» disse Martí senza alzare gli occhi. «Non siamo a un comizio». «Camerata Martí, questa è una faccenda urgentissima», disse Gomez. «Una faccenda della massima importanza». Il caporale e il soldato assistevano alla scena con vivo interesse, come a uno spettacolo già visto più volte, ma di cui fossero sempre capaci di gustare i momenti migliori. «Tutto è urgente», disse Martí. «Tutto è importante». Sempre tenendo in mano la matita, finalmente li guardò. «Come avete saputo che Goltz era qui? Non capite che è una cosa molto grave chiedere di un certo generale prima di un attacco? Come potevate sapere che quel tale generale era qui?» «Diglielo tu», disse Gomez ad Andrés. «Compagno generale», cominciò Andrés, «quel foglio me l'hanno dato dall'altra parte del fronte». «Dall'altra parte del fronte?» disse Martí. «Poco fa lui ha detto che venivate dalle linee fasciste. Me l'ha dato un inglese a nome Roberto, compagno generale, che è venuto da noi per far saltare il ponte, capisci?» «Continua pure la tua storia», disse Martí a Andrés, usando la parola storia come per dire menzogna o falsità. «Beh, compagno generale, l'inglese mi ha detto di portarlo a tutta velocità al generale Goltz. Il generale sta per sferrare un attacco su queste colline e noi chiediamo solo di potergli portare il messaggio al più presto». Martí scosse nuovamente il capo, guardava Andrés senza vederlo. «Goltz», pensava Martí con un miscuglio di orrore e di esultanza. «Goltz dunque era anche lui uno di loro. Goltz comunicava dunque così sfacciatamente con i fascisti. Il marcio bisogna rivelarlo perché si possa distruggere. Ma proprio Goltz fra tutti. Goltz un traditore. Lui, Martí, sapeva che non ci si può fidare di nessuno mai, nemmeno della propria moglie, nemmeno del proprio fratello, nemmeno del più vecchio compagno, di nessuno mai. Portateli via», disse alle guardie. Custoditeli bene. Il caporale guardò i soldati. Di solito Martì era più rumoroso. Compagno Martì, disse Gomez, cerca di ragionare, ascolta un reale ufficiale, un camerata. Qui c'è un messaggio che deve essere consegnato. Questo camerata l'ha portato dalle linee fasciste per consegnarlo al compagno generale Goltz. Portateli via, disse Martì con tono gentile alle guardie. Andrés si volse a Gomez. Allora lui non manderà il messaggio? Chiese incredulo. Non vedi? Disse Gomez. Me cago in su puta madre, disse Andrés. E sta loco. Sì, disse Gomez, è pazzo. Sei pazzo, mi senti, pazzo! Gridò a Martì, che si era curvato di nuovo sulla sua carta con la sua matita rossa e blu. Mi senti, assassino, pazzo! Portateli via! Martì disse alla guardia. I loro cervelli sono sconvolti dalla loro grave colpa. André Martí era impegnato nella guerra. Nella sua mente comandava le truppe. Aveva il diritto di intervenire e secondo lui questo rappresentava comandare. Se ne stava dunque lì col messaggio di Robert Jordan a Goltz in tasca. E Andrés aspettava nel corpo di guardia e Robert Jordan era disteso nei boschi al di sopra del ponte. Forse l'esito della missione di Andrés non sarebbe stato diverso, anche se egli e Gomez avessero potuto proseguire senza l'ostacolo di Martì. Al fronte non c'era nessuno che avesse autorità sufficiente per annullare l'ordine di attacco. Il meccanismo era da troppo tempo in movimento per poter essere fermato bruscamente ora. Tutte le operazioni militari, di qualunque importanza, hanno una grande forza d'inerzia. Ma fermare un movimento, una volta vinta l'inerzia e avviato che sia, è quasi altrettanto difficile che iniziarlo. Ma quella notte il vecchio, il suo basco sugli occhi, era ancora seduto al tavolo davanti alla sua carta, quando la porta si aprì e Kharkov, il giornalista russo, entrò con due altri russi in abito civile, giaccone di pelle e berretto. Il caporale di guardia chiuse a malincuore la porta alle loro spalle. Kharkov era la prima persona cosciente con cui egli fosse riuscito a comunicare. «Tovarish Martí», disse Kharkov con la sua voce blesa, cortesemente sdegnosa, e sorrise, mostrando i denti guasti. Martí si alzò. Kharkov non gli era simpatico, ma Kharkov, che veniva dalla Pravda ed era in comunicazione diretta con Stalin, era in quel momento uno dei tre uomini più importanti della Spagna. «Tovarish Kharkov», disse. «Preparate l'attacco?» disse Kharkov insolente, accennando verso la carta. «Lo sto studiando», rispose Martì. «L'attacco lo fate voi o Goltz?» gli domandò Kharkov mellifluo. «Io, come sapete, sono solo un commissario», disse Martì. «No», disse Kharkov. «Siete troppo modesto, siete un generale. Avete qui la vostra carta e il vostro binocolo». «Ditemi, compagno Martì, avete mai sentito che Goltz abbia ricevuto un messaggio da uno dei vostri gruppi di partigiani che operano intorno a Segovia? C'è lì un compagno americano, un certo Jordan, che avrebbe dovuto mettersi in comunicazione con noi. Si dice che ci siano stati combattimenti da quelle parti, dietro le linee fasciste. Questo Jordan avrebbe mandato un messaggio a Goltz». «Un americano?» chiese Martì. Andrés aveva detto un inglese. Aveva dunque sbagliato. Ah, era così. Dovevano proprio rivolgersi a lui, quegli idioti. «Sì», disse Kharkov, guardandolo con disprezzo. «Un giovane americano di scarsa importanza politica, ma molto amico degli spagnoli, un valoroso partigiano. Datemi quel messaggio, per favore, compagno Martì. È già stato ritardato abbastanza». «Quale messaggio?» chiese Martì. Capì subito di aver detto una cosa molto stupida, ma egli era incapace di riconoscere così presto un suo torto e aveva parlato comunque per ritardare l'istante dell'umiliazione. «Il messaggio che avete in tasca del giovane Jordan a Goltz», disse Kharkov tra i suoi denti guasti. André Martì si mise la mano in tasca e posò il messaggio sul tavolo, guardando Kharkov fisso negli occhi. «Benissimo. Lui aveva torto e non poteva farci niente, ma non si sarebbe lasciato umiliare». «E il salvacondotto?» disse Kharkov dolcemente. Martì lo posò accanto al messaggio. «Compagno caporale!» chiamò Kharkov in spagnolo. Il caporale aprì la porta ed entrò. Gettò una rapida occhiata a André Martì, che gliela restituì come un vecchio cinghiale accerchiato dai cani. Sulla faccia di Martì non c'era paura né umiliazione. Egli era soltanto pieno di collera e solo temporaneamente accerchiato. Sapeva che quei cani non potevano sopraffarlo. «Portate questi documenti ai due compagni nel corpo di guardia e indicate loro la strada per raggiungere il quartier generale del generale Goltz», disse Kharkov. «Hanno perduto già troppo tempo». Il caporale uscì. Martì lo seguì con gli occhi, poi guardò Kharkov. «Tovarish Martì», disse Kharkov, «voglio proprio vedere fino a che punto siete intoccabile». Martì lo guardava fisso, senza dir niente. «Non cominciate ad almanaccare sul caporale adesso», seguitò Kharkov. «Non è stato il caporale. Ho trovato quei due nel corpo di guardia e mi hanno parlato. Era una menzogna. Spero che tutti gli uomini mi parleranno sempre». Questo era vero, sebbene fosse stato il caporale a parlare. André Martì riabbassò lo sguardo sulla carta. «Che cosa diceva il giovane Jordan?» chiese quindi Kharkov. «Non ho letto», disse André Martì. «E maintenant, fichez-moi la paix, compagno Kharkov». «Bene», disse Kharkov. «Vi lascio alle vostre fatiche militari». Thank you. Andrés e Gomez erano di nuovo sulla motocicletta, sulla strada, e cominciava ad albeggiare. Tre automobili militari erano ferme fuori del piano della strada a destra sotto gli alberi, tutte coperte di rami. Gomez spinse la motocicletta verso una di quelle macchine, l'appoggiò a un pino e si rivolse al conducente che era seduto contro un albero accanto alla macchina. «Ti ci porto io», disse il conducente. «Leva di mezzo la tua moto e coprila con questi», accennò a un fascio di rami tagliati. Mentre il sole cominciava a filtrare tra i rami più alti dei pini, Gomez e Andrés seguirono l'autista, che si chiamava Vicente, attraverso i pini e la strada e su per la salita fino all'ingresso di un rifugio, dal tetto del quale uscivano dei fili telefonici che sparivano su per il versante boscoso. Attesero fuori mentre il conducente entrava. Vicente, l'autista, uscì dal rifugio. «Il generale», disse, «è lassù, dove si stanno spiegando per l'attacco. Il suo messaggio l'ho dato al suo capo di stato maggiore. Ecco qua la ricevuta». Tese a Gomez la busta firmata. Gomez la diede a Andrés, che la guardò e se la mise nella camicia. «Che firma ha messo?» chiese. «Duval», disse Vicente. «Bene», disse Andrés. «Era uno dei tre ai quali potevo consegnarlo». Dentro al rifugio, Duval, col messaggio aperto di Robert Jordan nella sua sinistra, guardando l'orologio a bracciale sulla stessa mano, rileggendo per la quarta volta il messaggio e ogni volta sentendo il sudore scorrergli dalle ascelle giù lungo i fianchi, disse al telefono: «Datemi la posizione di Segovia, allora». «È già andato via». «Datemi Avila, allora». «Allora datemi il campo deviazione numero uno», disse Duval, prendendosi bruscamente tutta la responsabilità. Sì, si sarebbe presa la responsabilità di fermare l'attacco. Era meglio finirla. Non si può sferrare un attacco di sorpresa contro un nemico che lo aspetta. È impossibile, è un delitto, non si può, non si deve in nessun caso. Lo fucilassero pure se credevano. «Lascia stare l'aeroporto», disse al telefonista. «Dammi invece l'osservatorio della 69esima brigata». Stava ancora aspettando la comunicazione quando sentì gli aeroplani. In quel preciso momento ebbe la comunicazione con l'osservatorio. «Sì?» disse Goltz, tranquillo. «Sì?» disse nel telefono, parlando in francese perché c'era Duval all'altra estremità del filo. «Nous sommes foutus, oui, comme toujours, oui, c'est dommage, oui». «Peccato che sia arrivato troppo tardi». Mentre ora guardava gli aeroplani, quasi sulla sua testa, sentì lo stomaco rivoltarglisi. Capiva, dopo aver udito al telefono il messaggio di Jordan, che su quelle due piccole alture lassù non ci sarebbe stato nessuno. Il nemico si era certo ritirato un po' sotto, in strette trincee, per difendersi dalle schegge, oppure era nascosto nei boschi. Appena fossero passati i bombardieri sarebbero tornati lassù con le loro mitragliatrici, i loro fucili automatici e i cannoni anticarro che Jordan aveva visto passare sulla strada, e la faccenda sarebbe terminata con un altro bel fiasco. Ma gli aeroplani, che arrivavano ora con un rumore assordante, facevano la loro parte. Alzando la testa per guardarli, Goltz disse nel telefono: «No, rien à faire, faut pas penser. Faut accepter!» Goltz guardava gli aeroplani coi suoi duri occhi orgogliosi. Sapeva come avrebbero potuto andare le cose e come invece andavano. E orgoglioso di come avrebbero potuto andare, ostinandosi a credere, anche se tutto andava male, che l'offensiva potesse riuscire, «Bon», disse, «nous ferons tout notre petit possible», e riattaccò il ricevitore del telefono. Ma Duval non lo udì. Seduto al tavolo, col ricevitore in mano, udiva solo il rombo degli aeroplani. «Ecco», pensò, «senti che arrivano? Questa volta forse i bombardieri faranno saltare tutto in aria, forse riusciranno a sfondare, arriveranno le riserve che Goltz ha chiesto, forse ci siamo, forse è questa la volta, avanti su, avanti!» Il rumore era così forte che Duval non udiva più i propri pensieri. Thank you. steso dietro il tronco di un pino, sul versante della collina al di sopra della strada e del ponte, Robert Jordan guardava sorgere l'alba. Sotto di sé, attraverso la leggera nebbia che saliva dal letto del fiume, egli vedeva il ponte d'acciaio, rettilineo e rigido sopra il valico, con le garitte di legno delle sentinelle alle due estremità. Ma in quell'ora l'armatura del ponte appariva ancora filiforme ed aerea nella nebbia sospesa sul fiume. Adesso egli vedeva la sentinella nella sua garitta, la schiena nel lungo poncio di panno, l'elmetto di acciaio in testa, chinarsi sulla latta di petrolio trasformata in braciere per scaldarsi le mani. Robert Jordan udiva scorrere il fiume lontano tra i massi e vedeva un fumo debole, sottile, salire dalla garitta. Vide due uomini, avvolti nelle coperte e con gli elmetti in testa, svoltare la curva della strada e marciare verso il ponte coi fucili a tracolla. Uno si fermò all'estremità più lontana del ponte e sparì nella garitta. L'altro traversò il ponte camminando con passo lento e pesante. Si fermò sul ponte e sputò giù nella gola. Poi raggiunse lentamente l'estremità del ponte più vicina a Jordan, dove l'altra sentinella gli disse qualcosa e poi se ne andò attraversando il ponte. Se ne stette disteso dietro il pino con il fucile automatico sull'avambraccio sinistro, senza più guardare la garitta della sentinella, finché, molto tempo dopo, quando già gli era parso che niente potesse accadere in una così bella mattina di maggio, udì il brusco, sordo rombo delle bombe. Quando Robert Jordan udì le bombe, il primo sibilo sordo, prima che i monti lo rimandassero trasformato in tuono, trasse un lungo sospiro e sollevò il fucile automatico da dove l'aveva posato. Aveva il braccio addormentato per il peso e le dita non volevano ubbidirgli. La sentinella che era nella garitta alzò la testa quando udì le bombe. Robert Jordan lo vide allungare la mano verso il fucile e farsi avanti sulla porta della garitta in ascolto. Robert Jordan si sentiva soffocare ora, come se un filo di ferro gli serrasse il petto, e puntando i gomiti, sentendo sotto le dita le rughe dell'impugnatura anteriore dell'arma, puntò il mirino, che era perfettamente al centro dell'intacco dell'alzo, in mezzo al petto dell'uomo, e premé dolcemente il grilletto. Sentì contro la spalla il sussulto rapido, liquido, spasmodico del fucile mitragliatore, e sulla strada l'uomo scivolò in avanti sulle ginocchia con un'aria stupita e offesa, e si piegò in due battendo la fronte sulla strada. Non vide l'altra sentinella. Guardò allora giù per il pendio a destra, dove Agustin era nascosto. In quel momento udì sparare Anselmo. Il colpo strappò un eco alla gola. Poi udì un altro colpo. Col secondo colpo arrivò dalla svolta sotto il ponte l'esplosione ripetuta delle bombe a mano. Poi altre bombe scoppiarono a sinistra, molto più in su, verso la strada. Poi Robert Jordan udì un fuoco di fucileria su per la strada e il rumore del fucile automatico da cavalleria di Pablo si mescolò, salendo dal basso, allo scoppio delle bombe. Vide Anselmo precipitarsi per la scorciatoia che scendeva ripida presso l'altra estremità del ponte. Mise in spalla il mitragliatore, afferrò i due fagotti pesanti che erano dietro i tronchi di pini e, tenendone uno in ogni mano, le braccia tese come se i tendini volessero uscirgli dalle spalle, corse barcollando giù per il ripido pendio fino alla strada. Il vecchio gli venne incontro correndo con il fucile in mano. «Sin novedad!» gridava. «Tutto va bene! Tuve che rematarlo! Ho dovuto finirlo!» Inginocchiandosi, Robert Jordan aprì i fagotti al centro del ponte, ne tolse il suo materiale e vide che le lacrime scorrevano sulle guance di Anselmo tra la barba grigia. «Io maté uno también!» disse ad Anselmo. «Ne ho ucciso uno anch'io!» e accennò con la testa verso la sentinella piegata in due sulla strada in fondo al ponte. «Sì, ombre, sì!» disse Anselmo. Dobbiamo ucciderli e li uccidiamo.